voi telefonate a uno studio, non importa che studio, lo studio di un avvocato, di un commercialista, di un notaio, di un altro esercente, una qualsiasi libera professione, vi presentate alla gentile signora o signorina che risponde, magari se siete in confidenza scambiate quattro banalità sulle condizioni del tempo e su quelle della salute reciproca e chiedete se il dottore è in ufficio. Le alternative non sono moltissime, o vi risponde che c'è e ve lo passa, o vi dice che non c'è, o magari che c'è ma è occupato. Se è occupato in genere può essere in riunione, può essere al telefono sull'altra linea, o più misteriosamente può essere con una persona. Nei quali casi ringraziate, assicurate che richiamerete, oppure pregate di farvi richiamare e passate ad altra attività, almeno voi. Perché io nell'ultima di tutte le ipotesi che ho elencato prima resto per un pezzo ad arrovellarmi su quel misterioso e con una persona. E non so ma che razza di persona sarà, mi chiedo che cosa starà facendo con il dottore. L'informazione, lo capisco anch'io, mi è stata fornita esplicitamente nella forma più succinta possibile, non precisando di colui o colei con cui si sta intrattenendo il mio mancato interlocutore, nient'altro che il fatto che esiste, a puro scopo di discrezione, perché negli studi professionali naturalmente la discrezione è una cosa importante, ma non importa, la formula suscita lo stesso una curiosità insaziabile. La stessa di quando mi capita di parlare con un amico mio e oziosamente, tanto per dire qualcosa, gli chiedo che impegni abbia e lui, che è un individuo istintivamente riservato e discreto, mi dice che deve vedere una persona. Magari aggiunge che la deve vedere in un certo posto per fare una certa cosa. Io non sono particolarmente curioso, vi giuro, e se mi rispondesse deve vedersi con un tale o con una tale o con un onorevole o con un granduca o con una ballerina del Crazy Horse, visto che la camera tirata in ballo, non me ne fregherebbe assolutamente niente, ma è quel devo vedere una persona mi intriga terribilmente. Certe volte, se non fossi trattenuto dal senso del ridicolo, mi verrebbe voglia di pedinarlo. Eppure, persona in sé è una parola normalissima, di impiego non complicato, siamo tutti persone, tranne Domine Dio che è tre persone in una, ma il suo è un caso particolare su cui preferirei non avventurarmi. E a volte è bene necessario indicare un individuo in astratto senza precisarne alcuna caratteristica, come una brava segretaria discreta o come un amico riservato. Io mi ricordo, alla fine degli anni 70, le militanti femministe di lingua inglese si facevano grande scrupolo di utilizzare l'equivalente inglese person invece del termine man, sessualmente connotato, in tutta quella serie di espressioni in cui quel man era indebitamente usato per indicare anche delle donne. Per esempio, in chairman, il presidente, no? Termine la cui utilizzazione avrebbe potuto indicare che, a giudizio di chi parlava, solo un man, solo un uomo, avrebbe potuto sedere su una chair, su una sedia, per presiedere alcunché, per cui era molto meglio parlare di una chairperson, che poteva essere sia maschio sia femmina. L'usanza poi è stata mutuata anche da uomini maschi di retto sentire. Se non mi sbaglio, l'ex presidente statunitense Jimmy Carter, una volta alle Nazioni Unite, fece un piuttosto sensazione in un suo pubblico discorso, alludendo a un norvegese, che in inglese dice un Norseman, come a una Norse person, cosa che i norvegesi presenti vi irritò moltissimo, ma non importa, e senza implicazioni ideologiche evidenti, nell'ultimo decennio espressioni come bella persona, una gran persona, simili, si sono diffuse moltissimo, straripando dal gergo dello scienziario all'italiano corrente. Eppure, che volete che vi dica, a me queste espressioni mi mettono a disagio, sarà per via della mia formazione classica, non so, io non inesperto di etimi, so che persona per i nostri padri voleva dire maschera, è un calco attraverso l'etrusco ferso dal greco prosopon, vuol dire qualcosa che si applica sul volto, no? Personam tragicam forte vulpes viderat non vuol dire che la volpe per caso aveva visto una persona tragica, come tradurrebbe qualsiasi studente, ma vuol dire che aveva visto una maschera da teatro. Personam tragicam. Anche in italiano, anche nell'italiano dei buoni autori del gran secolo, persona non è l'individuo, ma è qualcosa di esterno, qualcosa che lo avvolge, con cui non si identifica. Per Dante, che era un po' spiritualista, era il corpo. Non a caso fa dire a Francesca che amor che al cor gentil l'atto s'apprende, prese costruire la bella persona che mi fu tolta. Che vergogna. E sì, ammetto che dire che il corpo è la maschera di qualche cosa d'altro comporta delle complicazioni ideologiche piuttosto gravi, ma non è questo il punto, dato che oggi nessuno oggi confonde la bella persona con il bel personale. Il punto è che probabilmente indicare qualcuno, anzi indicare chiunque, con il termine più astratto, meno significativo possibile, dà fastidio. A me dà fastidio. Siamo tutti persone, d'accordo, ma essere persone non vuol dire assolutamente niente. Siamo tutti uomini o donne, o alti o bassi, o infami o famosi, o buoni o cattivi, servitori del popolo, schiavi del padronato. E che cos'è quello che abbiamo in comune? Qualche cosa sicuramente in comune lo abbiamo, ma per indicarlo, usare un termine che stringe è stato coniato per indicare l'esteriorità di una maschera, non mi convince, mi dà un fastidio della Madonna. A meno naturalmente che io sia solo irritato, perché l'ultima volta che la segretaria al telefono mi ha avvertito che il dottore era impegnato con una persona e che mi avrebbe richiamato immediatamente, poi non mi ha chiamato per niente.